E noi ci chiediamo chi ha paura delle primarie e degli outsider e soprattutto come cambia la politica italiana a poche ore dal voto di fiducia sul governo.